Avventurieri, purtroppo non siete riusciti a sistemare il codice. La locandiera non potrà servirvi da mangiare né da bere. Per questo perdete alcuni punti energia. Ora riposatevi un po'. Tra poco sarà il momento di rimettersi in cammino.